24 mattino. Molte polemiche ha suscitato la pubblicità di Pandora. Tu sai che Pandora è un ferro da stiro, un pigiama, un grembiule, un bracciale Pandora. Secondo te cosa la farebbe felice? È stata giustamente definita una pubblicità sessista. Pandora però ha ammesso le sue colpe e ha fatto dietro front. Mi ha mandato un comunicato ufficiale di scuse che ti leggo. Ci scusiamo con tutte queste sciacquette che abbiamo offeso. Ecco. È il classico Gene Gnocchi quando scolpisce così il paradosso nel racconto della contemporaneità. E allora, tante cose oggi, ma voglio cominciare da un'immagine che mi ha colpito. È un video, pochi minuti, non c'è suono, non c'è audio. Lui si chiama Wu Jongjing e sta facendo quello che gli piace nella vita, fare il selfie pericoloso da un grattacielo. Sembra sicuro di sé, saldo mentre si afferra con le mani. In rete è tutto andato bene, ha fatto il selfie ed è già consegnata alla celebrità quell'impresa. Ma poi quel video preso di lato, quell'omino, improvvisamente comincia a indugiare, serra la presa, cerca un appiglio, muove le gambe con esperienza ma sembra spaventato, il suo corpo trasmette paura e poi zac, un secondo e finisce nel vuoto. È la moda dei selfie pericolosi ed è la tomba di una generazione di persone che, come vedremo più tardi, muoiono per queste imprese. Io spero che riusciremo a spiegare ai nostri figli che è pura follia. Allora, cominciamo così, con questo omino che ci dice quanto siamo piccoli di fronte anche alla grandezza delle città e della vita, e iniziamo dalla rassegna delle prime pagine, come sempre. Il giornale: restiamo al freddo per colpa dei no global, esplode una centrale del gas in Austria, prezzi alle stelle e i veti della sinistra bloccano l'altro gasdotto in Puglia. Ale, questo è il giornale. Il fondo è del mio ex socio televisivo Nicola Porro. E Gerusalemme, ignoranza capitale, il corsivo di Sgarbi. Repubblica, al voto il 4 marzo, è l'annuncio, diciamo, quasi ufficiale, ufficioso, di un accordo istituzionale, e a sinistra scatta il derby dei collegi. Già, perché diventerà, anche se questi collegi sono un po' tarocchi nel senso che c'è il paracadute, diventerà presto un gioco. Chi combatte contro chi? Vi daremo dei nomi leggendo queste prime anticipazioni. Avvenire, obiezione ai primi sì sul biotestamento, cattolica e gemelli, le DAT non siano inappellabili. Il fatto: comincia in Senato la maratona per forzare l'approvazione della legge già domani, maggioranza trasversale alla prova del voto segreto. L'editoriale di Raul Caruso è sulle armi, sempre Avvenire a dei filoni suoi, vendite su e l'Italia cosa fa? Corriere della Sera, Consip, questa è l'altra grande notizia di oggi, la sospensione di due carabinieri per depistaggio, l'inquinamento di una parte dell'inchiesta. Il titolo: Consip, trama contro Renzi. Il pezzo è di Giovanni Bianconi. C'è poi la soddisfazione, ovviamente legittima, del premier sulle parti di quell'inchiesta, che, dell'ex premier, che erano state manipolate. Il caffè di Gramellini è sull'influenza del maschio, anche qui da citare. E poi il fondo di Dario Di Vico, relazioni industriali ed empatia sul il ruolo dei sindacati. E questa è la prima pagina del Corriere della Sera, la vignetta di Giannelli. A rischio il flusso di gas dalla Russia, e c'è un Matteo Renzi sorridente alla barbaccia di chi mi vorrebbe alla canna del gas. Tiè! Il fatto: una foto in nero con i vertici dell'arma, anche molto suggestiva. La sai l'ultima sui carabinieri? Questo è il titolo. Consip, quattro ufficiali nei guai, il comandante indagato del 7 rinuncia a promuovere il capo della Toscana Saltamacchia dopo l'interrogatorio, il colonnello Sessa e il maggiore Scafarto inquisiti per depistaggio e sospesi per 12 mesi. Beh, sicuramente è un momento molto difficile. Nonna Peppina minaccia il mondo, il fondo di Marco Travaglio che entra sulle posizioni di Renzi, e poi ancora il fatto, ma vedremo anche il Corriere, tiene il caso Bellomo con nuove incredibili storie di questa prevaricazione ai danni di ragazze che frequentavano la scuola per diventare magistrati. Il Foglio. Parlamentari alle marce antisemite, molotov sulle sinagoghe, roghi di bandiere israeliane. La Svezia ha un problemino con gli ebrei. Questo è il pezzo di Meotti che sta nel suo palco di apertura. E poi c'è il gioco frivolo del partito di Gentiloni, di Giuliano Ferrara, questo pezzo da segnalare, su l'immagine di questo uomo che dell'assenza ha fatto una strategia. Vi leggo il sommario: Gentiloni non è il simbolo di una rottura con il passato, è Renzi, ma l'immagine di una classe dirigente che ha governato bene e pagherà malumori scollegati alla realtà. Come difendersi da una campagna di mezze solitudini e poca verità? Ale. Il Giorno. Dimissioni necessarie è un'altra delle storie sul Corriere, una breve. Sul Giorno diventa la foto di prima pagina, anche La Verità prende posizione. Sul sito del Senato, nella pagina personale di Grasso, è comparso il link automatico al suo tweet, su cui c'era però il simbolo di Liberi ed Uguali. Divampa la polemica, Mattarella contrariato, l'ex presidente Schifani sbaglia, Grasso, cioè a schierarsi. Sì, è un dibattito che c'è da più parti. Ministro dell'Interno è il titolo del manifesto. I governi europei, e in particolare l'Italia, complici del sistema di violenze sui migranti da parte della Guardia Costiera di Tripoli e del naufragio del 6 novembre. Morirono 50 persone. Il rapporto di Amnesty International a Bruxelles inchioda Unione Europea e Miniti alle proprie responsabilità. In realtà il ministro è dell'inferno nel gioco di parole del titolone, e al centro di questa foto c'è ovviamente Marco Minniti. Il Mattino, svolta Facebook, tasse in Italia, e poi di spalla Consip, nuovi falsi, sospeso Scafarto. Poi una foto, solo Napoli non ti dimentica mai, Gulam. L'infortunio, torno per la volata dello scudetto. Il Fondo è sulla vicenda di Facebook, Paola Balduzzi, primo passo per un fisco equo. Mossa Facebook, tasse in Italia, anche il Messaggero su questa vicenda, ovviamente molto importante, ne discuteremo con Oscar Giannino. E il Sole 24 Ore, svolta di Facebook sulle tasse, imposte pagate nei paesi dove si generano i ricavi. A me pare veramente sensato. Il MEF, scelta importante. Il Fondo, che leggerò, di Carlo Garbarino, è cominciata la rivincita del territorio, business meno globale. Ma poi ovviamente la foto è una grande fiammata, esplode l'impianto di gas in Austria, forniture. Il Tempo, sulla vicenda Lazio, ci vediamo in tribunale. La Gazzetta dello Sport, Gigio Caos in partenza già a gennaio, Donnarumma, e gli ultimi tre titoli importanti. La Stampa, povera Italia, siamo ultimi in Europa. La Verità, una Repubblica fondata sul lavoretto, dati molto interessanti sull'occupazione. Libero, Padoan consiglia Trump non diminuire le tasse. Ci sentiamo fra poco per le letture approfondite. Curiamolo, leviamogli il metadone. Mattino. E oggi bisogna cominciare da Consip, con la doppia paginata del Corriere della Sera. Per esempio, le trame contro Renzi, i due carabinieri sospesi, è quasi una piccola sentenza. E il pezzo portante di questa doppia pagina del Corriere, sto leggendo a pagina 3 ovviamente del quotidiano della RCS, c'è Giovanni Bianconi che spiega le gravissime manipolazioni che i due due imputati, Scafarto e Sessa, hanno messo in atto nell'inchiesta. Mi ha colpito una di queste cose, di verità travisata. I due volevano dimostrare che c'era un rapporto, una prova, trovare una prova di un rapporto fra Romeo o qualcuno intorno a lui e Tiziano Renzi. Ovviamente c'erano stati altri contatti, ma che cosa fanno? Prendono il brogliaccio di una intercettazione in cui Italo Bocchino, ex deputato e consulente di Romeo, incontra Matteo Renzi. Bene, prendono questa sbobbinatura, tolgono Matteo, quindi in qualche modo fuorviando il magistrato che indagava, e scrivono queste parole: consentono di inchiodare il Renzi Tiziano alle sue responsabilità. Quindi stiamo parlando di depistaggi molto importanti. Poi ci sono anche altre accuse, quelle di aver cancellato la lista di WhatsApp mentre erano intercettati, ma direi che questa immagine dell'inchiesta tarocca in cui un elemento vero viene trasformato in un elemento falso sono importanti. Però è come se il Corriere avesse pena e contrapasso, perché a pagina 5 c'è una cosa che invece è un, come dire, un dispiacere per Renzi e la Boschi: l'atto di accusa contro Pierluigi Boschi, le omissioni dei PM. È un pezzo di Fiorenza Sarzanini che racconta come, vi ricordate la famosa audizione del PM russo che diceva no, non è indagato? Proprio 10 giorni prima di quell'audizione in realtà Boschi veniva rimesso sotto indagine per la vicenda della banca, degli affidamenti, del fallimento di Banca Etruria. E quindi queste sono le due notizie, sicuramente quella di Consip è importantissima, che aprono il Corriere della Sera, ma sono un po' su tutti i giornali di oggi. E vi dicevo, questo problema di Grasso è finito in un infortunio per questo tweet automatico che collegava solitamente le sue comunicazioni alla sua pagina personale sul sito del Senato, però un tweet in cui c'era il simbolo è apparso lì. E allora la vicenda è ricostruita anche con un po' di avventura interessante da diversi giornali, con Marideca più spazio, la verità che spiega come ad accorgersi di tutto sia stato un ex senatore Minzolini e abbia segnalato questa cosa. E il titolo del pezzo di Sabina Biraghi è: Grasso appende il suo simbolo in Senato. È sicuramente una vicenda che in questo momento può diventare importante, perché i ruoli, la terzietà delle cariche, il modo di arbitrare è sempre molto importante. Allora, vi dicevo delle sfide nei collegi, e qua si scatena il Corriere della Sera e anche Repubblica, che fanno le diverse ipotesi. Pensate che a Gallipoli Massimo D'Alema sarà sfidato da Teresa Bellanova, una sindacalista. Allora, un collegio per quattro, le sfide impossibili, è il pezzo di Dino Martirano sul Corriere della Sera. Salvini segue Renzi, ipotesi di un duello Gentiloni-Meloni, Veltroni correre, no, ho rifiutato l'offerta, dice l'ex segretario del PD. Un'altra sfida che potrebbe verificarsi è quella di Matteo Renzi, quindi con Salvini, che era citata nel titolo, poi quella della Meloni, con chi si scontrerà fra i 5 Stelle la leader di Fratelli d'Italia, e poi ovviamente quelle cruciali nell'Emilia Romagna, dove si sfideranno personaggi pesanti per la lista di Grasso, come Bersani e Chiti. La battuta più bella, devo dire, l'ha fatta Errani. La battuta più bella però l'ha fatta Gianni Cuperlo, a cui era stato chiesto di sfidare Bersani magari nel collegio di Bologna, e il leader della minoranza del PD ha risposto con la sua solita ironia: no, preferisco di no, declino l'invito, perché poi sta a vedere che lo voto pure io. Beh, è un atto di galanteria politica molto divertente. Allora, dicevo, l'esondazione di Brescello, il Corriere, pagina... Ah, scusate, un'altra cosa sulle candidature, si candida il fratello di De Magistris, eh? Corriere, pagina 17, si candida il fratello di De Magistris, probabilmente alleato anche lui con la lista di Grasso. No, vi dicevo, l'esondazione di Brescello, il Corriere, pagina 21, ne abbiamo un po' parlato, ma è incredibile questo dato, è caduta più acqua ieri su questo paese in 36 ore, la metà della pioggia di tutto un intero anno, argini, lavoro in ritardo. È stato speso solo il 20% dei fondi. Allora sul Corriere, Agostino Gramigna e Paolo Virtuani, pagina 21, Emilia sott'acqua, anche la Reggia di Colorno. Per chi vuole approfondire, ovviamente, perché è un tema molto importante quello della prevenzione, la tutela del territorio che ci porta sempre a subire di più i fenomeni naturali. Cose che per me sono divertenti e interessanti, perché ci avviciniamo alle feste. La guerra dei cinepanettoni, recensiti un po' dappertutto, e devo dire, il prodotto curioso è questo super, il super, la quintessenza del super panettone, che è stata messa insieme da un regista giovane di successo, Paolo Ruffini, e sfiderà in alcune cose, e ci saranno Boldi in un altro cinepanettone, sfiderà se stesso vecchio nel cinepanettone montato. La quintessenza del cinepanettone. E poi ovviamente arriva Star Wars, il super film tanto atteso, il seguito della saga. È un film che sembra, tutte le recensioni dicono che è fatto con un sapore antico, con il ritorno alle atmosfere, ai suoni della prima saga, un film vintage, no? E esce Gli Ultimi Jedi e la saga di Star Wars è ancora una forza. Federico pontiggia, per esempio, sul fatto: lo Star Wars migliore dai tempi dell'impero colpisce ancora, anno di grazia 1980. Forse, di certo, è meglio del precedente, la chiave è sempre lì, nella forza, la chiara e l'oscura, che divide il mondo. Mentre invece sul Corriere della Sera e Mereghetti, 33 cinepanettoni che raccontano l'Italia, gusti, modi, vizi e sarcasmo in super vacanza di Natale, 35 anni di italianità. Leggo Mereghetti, naturalmente restano frasi entrate nel lessico comune come "non sono bello, piaccio", "anche questo Natale ce lo siamo levati alle palle", quel genere che ha disgustato la critica più raffinata, con l'eccezione di Tullio Kezic, che nel 2005 sul Corriere della Sera paragonò Christian De Sica e Massimo Boldi a Totò e Peppino De Filippo. Ieri, dice Paolo Conti sul Corriere, sempre pagina 31, lo scrittore Andrea Minuzzi ha definito i cinepanettoni una metafora della lotta di classe per la sua capacità di dividere la penisola fra chi li adora e li cita e chi li demonizza, venendo nell'altra Italia quella da combattere. Moon, lo sapete che Trump vuole abitare la luna? Torna questo simbolo, Corriere pagina 29, questo mito di intere generazioni, non più come sogno ma come prospettiva colonica, come nei romanzi della grande fantascienza di Asimov, di Clarke e del grandi geni della fantascienza. Vi dicevo una cosa molto importante, il pezzo della Palmarini che dice: ci sarà la grande sfida del partito del deficit, sul Sole, a pagina 11. E infine, fra poco, nella parte economica, ovviamente parlo del gasdotto e di tutto quello che compone. Ma avremo alle 8:15 un esperto che ci spiega cosa cambia sui soldi e sulle forniture dopo questo incidente. Su Repubblica, pagina 23, segnalo il pezzo di Paolo Berizzi sul covo dei nazisti, che è stato appena chiuso. Ecco, in questi tempi qualcosa di positivo: armi e svastiche nel covo dei neonazi, blitz e perquisizioni per Dora, la comunità che, pensate un po', celebrava Hitler, e con simboli, riti, grandi manifestazioni. E la procura di Busto Arsizio e la Digos di Varese hanno chiuso questo covo di questa associazione, sequestrando simboli e armi. Allora ci fermiamo ancora un attimo e poi andiamo nella parte dei soldi e della mitragliata. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Mattino. Io non creo niente, io possecco e noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. Eh sì, caro Gordon, è il libero mercato, ma esiste anche la democrazia, esistono le regole, esiste il gesto importante che ha fatto Facebook aprendo alla tassazione cosiddetta locale, dove locale si intende lo Stato-nazione. E il gigante del web annuncia che delocalizzerà i suoi profitti, i suoi fatturati, il volume della pubblicità che raccoglie nelle amministrazioni degli stati nazionali e quindi pagherà le tasse in quegli stati e non più solo dove è basato. Allora, Alessandro Galimberti a pagina 3 del Sole, tanto tuo no che cominciò almeno a pioviginare. Dopo mesi di pressing internazionale, fra dossier di Bruxelles, scatti in avanti del G4 e proposta di web tax via OCSE, ma solo dal 2020, ieri Facebook ha annunciato una svolta significativa nel suo rapporto con le fiscalità nazionali. A partire dal 2018, quindi domani, dico io, a regime dal 2019, il popolare social network californiano e irlandese per via della residenza fiscale varerà una serie di strutture di vendita locali che opereranno di fatto come soggetti fiscali nei paesi dove l'azienda di Zuckerberg svolge la sua attività economica. Dal punto di vista tecnico e dei principi è una novità importante. Facebook Italia, tanto per restare in casa nostra, ma il modello si proporrà in altri 25 paesi, diventerà un proprio soggetto giuridico su cui verrà imputata la catena del valore, cioè i ricavi prodotti qui. In sostanza, l'economia digitale è senza frontiere per 20 anni, grande slogan della modernizzazione a senso unico, torna a territorializzarsi, legandosi alla fiscalità nazionale, scrive il giornalista del Sole, secondo un modello molto simile alla stabile organizzazione della vecchia economia industriale. E è una rivoluzione, perché questo vuol dire soldi, vuol dire gettito, e vi devo dire, è una cosa giusta, cioè non era possibile che chi lavorava per Facebook pagasse il 30% di tasse lo Stato e Facebook non le pagasse. È un riconoscimento importante. Allora qui merita il fondo di Carlo Garbarino. Con l'annuncio di ieri, prima pagina del Sole, Facebook ha scandito un radicale cambiamento del proprio modello fiscale di business, comunicando di aver deciso di muoversi nella direzione di una struttura locale di vendita. In tema di fiscalità, la parola locale irrompe così nel globale a seguito di un inatteso annuncio unilaterale. La fiscalità delle principali compagnie come Facebook si caratterizza per il fatto di essere globale. Esse infatti tendono a ridurre la tassazione nel paese di destinazione e ciò si coniuga con il fatto che spesso tali redditi non scontano imposizioni altrove, col risultato che si crea un reddito senza Stato. Questo ha portato taluni, scrive l'editorialista del Sole, addirittura a negare che il reddito dei global player abbia una fonte e che si determini così una metanazione deterritorializzata a essi riservata. Bene, con questa scelta, con questa autocertificazione, tutto questo finisce. E secondo me è un bene. Allora, esplode l'impianto di gas in Austria, stop a forniture dalla Russia all'Italia. Sul Sole a pagina 17, Sissi Bellomo, il petrolio torna ai massimi. E poi il fondo, il corsivo di Jacopo Giliberto, ostaggi dei troppi no, cioè la polemica che è seguita a questo incidente sul TAP, che come sapete ha subito forti opposizioni nei territori, certo per le modalità di realizzazione, ma anche perché ovviamente malgrado tutte queste resistenze diventa un'opera un'opera molto utile per non dipendere da un solo rifornimento. Allora, ecco qui la pagina del Sole, la 17, esplode l'hub del gas, si ferma l'import, giornata di emergenza, ma voi sapete dal nostro giornale radio che per fortuna è stato già riattivato il collegamento, ora poi vedremo con quali conseguenze, fra poco ne parleremo con l'esperto nella pagina insieme a Oscar. Vi dicevo che sulla Verità c'è un'apertura molto interessante sulla natura dei lavori che esce fuori da un'indagine approfondita dell'Istat. Allora, una Repubblica fondata sul lavoretto, titola Maurizio Belpietro, il rapporto congiunto di Istat, IMS, INAIL e Ministero spazza via la propaganda. I precari sfondano quota 4 milioni, per lo più vengono chiamati a intermittenza e per poche ore alla settimana. Guadagnano 250 euro al mese, però poi per le statistiche sono tutti occupati a tempo pieno. Allora, da leggere questo focus di Alessandro Rico, pagina 2 della Verità, l'editoriale di Belpietro, e poi il pezzo di Scianca, la badante e la colf, mestieri che gli stranieri non vogliono più fare. Perché? In 5 anni gli accompagnatori, pensate, sono calati di 145.000 unità, colpa di paghe giudicate troppo basse, ma comunque insostenibili dalle famiglie. Allora, sul Sole ovviamente ci sono le novità sui pagamenti elettronici e poi la guida al condominio facile, diritti e doveri di condomini amministratore. Ma adesso andiamo alla mitragliata. Allora, padre assente, il figlio quarantenne lo denuncia per questo abbandono familiare, di non esserci stato nel tempo della sua infanzia, e il Corriere racconta, ma è una notizia che è circolato molto nel web, che è stato condannato a pagare un risarcimento, migliaia di euro. E farà giurisprudenza questa sentenza? Sicuramente sì, qualcuno si preoccuperà, molti, perché finora era considerata una fatalità della vita, e adesso invece 20.000 euro se ti sei sottratto ai tuoi obblighi genitoriali. Posso dire? Bene. Allora, Repubblica Bari racconta la storia dei ragazzi che rivendono il loro bonus libri. Mettono su internet l'annuncio: vuoi comprare i tuoi libri? Io ti do 500 euro di bonus e tu me ne dai solo 250. Ma la cosa bella è la motivazione in questi annunci che girano sul web: tanto io dei libri non me ne faccio niente. Ale, lavori sociali. Sapete che c'è questa vicenda delle mamme che si sono infiltrate nella chat dei loro figli e hanno portato, pagina 23, La Verità, all'arresto di una gang che distribuiva droghe. Vai, super mamme! Infine, ma non infine, Carlo Piano, su quell'approfondimento che vi dicevo, pagina 8 della Verità, 170 morti ogni anno per i selfie pericolosi. Veramente siamo alla follia e speriamo che questa cosa finisca. E sì, sapete che c'è sulla Stampa, pagina 13, il racconto di un personaggio molto simpatico. Si chiama Lulu, è un cane anticancro. Pensate, fiuta i campioni e nel 99% dei casi riesce a dire se c'è la malattia del secolo alla prostata, per esempio, con una certezza quasi matematica. Altro che esami, altro che controlli, ci vuole Lulu da Castellanza, vicino a Varese. E allora ci fermiamo ancora e poi torniamo con i cani e i gatti, il grande dibattito, un giornino, due ospiti e l'esperto che ci spiega che succede sul gas.